Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20 in questo venerdì, caro Oscar. Eccoci qua, come andiamo? Come andiamo? Si approssima venerdì. Al derby, io lo so che ti sento con me. Lo so, ormai. Quindi silenzio. Tum, tum, tum, tum, tururu. No, allora, oggi 17 novembre facciamo gli auguri a chi si chiama Noè, sì, proprio quello del patriarca. Noè. È un santo, pochi sanno che i patriarchi dell'Antico Testamento, neanche non siano santi, sono santi pure loro, i profeti dell'Antico Testamento, il patriarca Noè, ricordate quello che insomma, quando piove costruite un'arca, ecco, più o meno questo è il criterio e andiamo tutti al monte Ararat, ci salveremo anche noi al sole. Quindi. Tra i santi del giorno, Odone di Cluny, grandissimo riformatore del movimento benedettino al grande monastero, quello di Cluny, a cui fu consentito di che tutti i monasteri cluniacensi, il modello cluniacense, dipendessero dall'abbazia centrale Cluny, motivo per il quale la rivoluzione francese lo spianò, poi pietra su pietra, 900 anni dopo. Oggi, nella storia, Guglielmo Tell tira la freccia sopra la testa del figlio, la famosa mela. E si fa un altro passo avanti per l'assoluta indipendenza della Svizzera, era un gesto di protesta nei confronti di un governatore degli Asburgo austriaci, quindi viva Guglielmo Tell. Certo, io una freccia sulla testa del mio figlio non avrei il fegato di tirarla, forse la libertà ha bisogno anche di questo. Dopodiché la strage, oggi c'erano i funerali dei 19 vittime italiane della strage in Assiria, dimenticate, 17 militari tra carabinieri e militari e due civili, tra cui un regista che stava lì realizzando un film proprio su quello che facevano i nostri militari. Era il 2003, sembrano già passati chissà quanti anni. Io amo ricordare però chi è caduto per l'Italia in queste missioni, mentre nel 2007 il discorso del Predellino, piazza San Barbara di Berlusconi, che annunciava il Popolo e Libertà. Praticamente possiamo trovare ogni anno annunci di questo tipo, ma questa è la storia della destra italiana. Chi fa gli anni oggi? Amanda Lear, ma non ti dico in che anno è nato perché sennò rimani senza parole. E poi Antonio Campodall'Orto, il capo governativo della RAI, che come hai visto sposta due virgole per aggirare le regole dell'ANAC che ha violato le sue nomine interne. Basta che aboliscano due virgole nel regolamento interno e le norme illegittime diventano legittime. Sono molto deluso dalla RAI Antonio Campodall'Orto perché ne avevo tutt'altra opinione. A dire la verità, era nata oggi anche Anna Marchesini, che è da poco scomparsa e che secondo me era veramente oggi grande. Oggi che è il 18, hai detto che è il 17? Esatto, il 18, sì, scusa. Venerdì 18. Sì. Già se poi fosse stato venerdì 13, per carità. No, diciamo, almeno questo. Del resto, che porti fortuna si capisce, perché come hai fatto bene a stornare la rassegna stampa, è l'ultimo giorno dei sondaggi. Che per noi giornalisti, io non vedevo l'ora che arrivasse. Piccolo passo verso la libertà, un piccolo passo per l'umanità. Anche. Perché se permetti, io ieri mi sono permesso di spiegare sui social a chi ci critica sempre, fanno tutti bene, benissimo, e ringraziamo chi critica con i giusti modi, però guardate che leggere le istruzioni di vigilanza che le aziende editoriali giustamente sottolineano a noi conduttori di rispettare è un invito allo studio del sanscrito, perché capisci che l'azienda ti dice, e lo dice la GCOM, non è che l'azienda inventi nulla, l'azienda è solo preoccupata che noi non appariamo, perché poi veniamo sanzionati come non rispettosi. Però lo sai meglio di me, Alessandro, quando ti arriva un invito del tipo, le opinioni o i fatti riferiti dal conduttore per il sì o per il no non valgono per il tempo computato dalla par condicio, tuttavia possono costituire un criterio integrante. Allora, che cosa vuol dire? Quel tuttavia, chi lo decide? Tu come ti regoli? Poi dice, tutti gli ospiti valgono ai fini della compresa, compresi i giornalisti. E cosa faccio? Li chiamo prima per sapere come la pensano, se poi in diretta per caso. Ma dai. Vabbè, insomma, io ho il mio parere sulla par condicio, ma lo dirò nel 2028. Esatto, sì. Perché poi no, ma la questione della par condicio è che la gente, se tu intervisti, che ne so, il presidente del consiglio, questa è la distorsione della par condicio, ti dice: l'ha intervistato senza contraddittorio. Ma è governo. Ma comunque poi ci sono delle persone che sono di interesse pubblico. Non è che ai tempi della guerra in Iraq, se uno intervistava George W. Bush, doveva avere o Osama Bin Laden dall'altra parte come contraltare per contrastare. È proprio l'abolizione della gerarchia delle notizie, che è poi in definitiva una delle libertà massime, no, dell'espressione del giornalismo. Un'intervista però è fatta a una persona, il senso dell'intervista. Poi, scusa, chiami una persona e gli fai delle domande. Ma De Luca è del sì o per i soldi, come dice il fatto, per esempio? De Luca certamente è uno che ogni tanto se ne va a cercare, ecco. Sempre, direi. Sì, è stato due giorni fa da noi, porca miseria, sapete di queste. Matrix non poteva fare l'intervista il giorno prima, così noi gli chiedevamo davvero se su Rosy Bindi. Ma ripeto, Bindi infame, vabbè, parte dalla sua espressione colorita, sì, che però solletica questa vena autoritaria che piace a tanti, perché De Luca piace a destra come a sinistra. Questo è quando si presenta alle elezioni vince. No, ma vince, al di là di quello, io sento, soprattutto tra i maschi, c'è questa trasversalità. De Luca e questo istinto primordiale dei raccoglitori cacciatori che cioè, la difficoltà di vivere nel codice di essere, diciamo, educati della modernità, molti maschi, Luca dice, però finalmente lui lo dice, uno con la mascella volitiva, con la mascella volitiva. Però detto questo, il tema che gli attribuisce il fatto di oggi, che immagino verrà smentito, però questa cosa di fare la riunione tra quelli del PD campano dicendo a me della Costituzione non me ne fotte niente, ma qui noi abbiamo un rapporto con Renzi che ci porta un mucchio di soldi, quindi portateli a votare con la banda, ma portateli a votare. Torna la posizione. Questo è quello che scrive il Fatto Quotidiano. Vogliamo sentirlo De Luca su Rosy Bindi. De Luca, in questa intervista di Matrix, anche se lui dice l'intervista era finita, questo sostanzialmente è la difesa di De Luca, cioè stavano smantellando un po' tutto e si è lasciato andare un po' in una conversazione privata su Rosy Bindi. Lei sta a Trump come Rosy Bindi sta alla Clinton. È stata una cosa infame che ha fatto questa. Quella degli impresentabili. Una cosa infame da ucciderla. Da ucciderla. E vabbè. Poi qualcuno ci dice: ma guardate che in napoletano, in campagna, uccidere si dice così per dire. Cioè, si fa anche così, sì, come è noto. Cioè, si fa con una certa, diciamo, leggerezza, per così dire. Sì, sì, chiaro. Non i napoletani, non i campani, sto dicendo i fenomeni della criminalità che sono da quelle parti lì. Pur tuttavia, ripeto, io non faccio il moralizzatore, non mi stupisco di nulla da questo punto di vista. Il referendum è questo, e nel referendum le promesse, i soldi, la struttura della legge di bilancio, i bonus, per questo io non mi stupisco che davvero poi De Luca abbia detto a quelli del PD campano le cose che il fatto gli attribuisce, perché è una scelta di fondo della politica per vincere il referendum. Guarda questo ascoltatore, caro Oscar, ci dice: ad ascoltarvi sovviene, parlando della par condicio, solo l'Emilio Fede di berlusconiana memoria. Io, tu hai meno capelli di Emilio Fede, io sono biondo, Emilio Fede era... Ma ci saremmo noi, Emilio Fede? Sì, evidentemente. Ma è così, perché gli ascoltatori di parte, a loro volta impregnati di questo spirito che non distingue più i fatti, vuole ridurti al fatto che se avanzi una critica, cioè se dici per esempio che la somma del prelievo del reddito dai conti correnti è una cosa sbagliata per la Corte Costituzionale, ancora ieri molti per difendere Zanetti e la scelta di stare col governo dicono: sbagli, ignorante, stai zitto. No, sbagliate voi, io guardo il merito, non guardo il colore, non me ne importa nulla, cioè, non... guardo, però cioè, è difficile fare il nostro mestiere quando la politica e le appartenenze prevalgono su tutto. Allora, dobbiamo dare il numero di telefono, che è 800 24 00 24. Vogliamo parlare anche di questo tema. Tu hai detto, hai citato i fatti, secondo la vulgata che c'è nelle ultime elezioni, soprattutto a partire dalla Brexit, se volete Oscar, la vittoria poi di Donald Trump, i fatti non conterebbero più, o meglio, non sarebbero più così decisivi i fatti, le verità accertate nelle campagne elettorali, ma conta più, come dire, come uno racconta le cose, questa famosa post-verità, questa verità percepita, questo sentiment nel portare gli elettori a formare una propria convinzione. Su questo forse hanno giocato un ruolo anche i social, sicuramente. Intanto ne vogliamo parlare con Alessandro Amadori, vicepresidente dell'Istituto Piepoli, che torna con noi. Buongiorno, buongiorno Amadori. Buongiorno. Proprio buongiorno, tra l'altro nel giorno in cui tutti i giornali pubblicano i sondaggi sul referendum, e poi magari ne parleremo. Con noi c'è anche Walter Quattrociocchi, allora una lunga qualifica, coordina il laboratorio di Computational Science all'IMT a Lucca, ma ha scritto anche un libro che si intitola Misinformation, guida alla società dell'informazione e della credulità. È Franco Angeli, editore. Buongiorno Quattrociocchi. Buongiorno a voi. E benvenuto ovviamente nella nostra trasmissione. Lei racconta in pratica che, diciamolo così, avete fatto anche una raccolta delle bufale che circolano, delle non verità, possiamo chiamarle così, o dobbiamo chiamarle post verità, come dobbiamo chiamarle adesso, che circolano sulla rete? Ma pezzi di narrazione. Comunque noi abbiamo fatto uno studio che in maniera molto semplice e riassunta praticamente dimostra che online almeno le persone acquisiscono solo le informazioni coerenti con la narrativa, contengono palesi falsità e ignorano qualunque tipo di contraddizione. Quindi i fatti, quindi la contraddizione, cioè non si può come dire cercare di convincerli, portarli, mettiamo così, sulla retta via se si convincono che una cosa è data per certa. Io da scienziato non posso parlare di retta via, verità o cose, cioè la scienza si ferma all'osservazione del fenomeno. Noi vediamo che il pregiudizio di conferma, cioè la tendenza ad acquisire un'informazione anche se contiene dossier palesemente chiari, tipo nelle scie chimiche, il diario, quindi il livello molto molto basso, cioè il livello di artificio molto molto alto, nonostante tutto l'importante è che sia consistente con quello che uno vuole sentirsi dire. Qual è la bufala, si chiama così, no? Che più lei ha citato le scie chimiche, ma ci sono delle bufale magari anche applicate alla politica, non lo so, ce lo dica lei, le bufale che circolano con maggiore diciamo che è molto veloce, mutano molto velocemente, cambiano molto velocemente, fanno leva sull'indignazione popolare sfruttando questa cosa del pregiudizio di conferma e della narrativa, e quindi è facilissimo in qualche modo individuare un topic tipo Umberto Eco che raccomandava per il c'è stato ancora la cosa dei vaccini con l'autismo che circola nonostante sia stata smentita più e più volte. C'è proprio questa tendenza, cioè una distrasta nelle istituzioni, mancanza di fiducia, ci troviamo un pochino persi e cerchiamo risposte, un po' come ai tempi dell'eresia, insomma, cioè il tantuffizio non necessariamente risolve il problema. Sì, insomma, ci sono delle notizie che vengono date, notizie, poi delle bufale che vengono propalate, ma queste incidono davvero? Questa è una domanda più che forse Amadori ci potrebbe... Incidono davvero, e quanto, Amadori, in queste campagne elettorali? Dice la tendenza da parte dei social media a fungere da elemento di autoconferma di ciò che uno si aspetta? Certamente incidono nella misura in cui incide il web sulla formazione delle opinioni, che in realtà web che in realtà ha ancora oggi un ruolo abbastanza marginale. Anche noi come Istituto Piepoli abbiamo fatto varie ricerche sulle fonti di informazione in ambito politico sociale per i cittadini, e in Italia almeno ancora oggi circa tre quarti dei cittadini hanno come principale fonte di informazione e di costruzione dell'opinione i media tradizionali, e in particolare la tanto vituperata televisione. Quindi posso un secondo fermarla su questo, Mondori, sì. Perché anche l'autorità ogni anno, quando ci sono turni elettorali, l'autorità di comunicazione poi affida a grandi istituti di sondaggio un'analisi che conferma appena quello che ha detto. Io ho come l'impressione, mi sbaglierò, cioè che il grande circuito dell'informazione dei giornalisti stia dando agli aspetti, per così dire, che sono tipici del mezzo tecnologico, dei social e del digitale, impatto, una importanza superiore a quella che è. Cioè questa storia che dietro ci siano i complottatori, le stanze dell'eco, tutto a tavolino e così via, fa dimenticare a chi ci ascolta, primo, che la natura infondata degli argomenti usati in campagna elettorale c'è da che esiste la democrazia. Chi si ricorda o ha mai letto la ricostruzione che Tucidide fa del colpo di Stato del 411 ad Atene, avanti Cristo, cioè un colpo di Stato oligarchico contro i democratici, sa che l'accusa è: questi si beccano i voti della grande assemblea dei 5.000 perché sono demagoghi e fanno promesse e dicono cose che non stanno né in cielo né in terra. Mentre gli oligarchi sostengono il contrario, gli oligarchi poi verranno sconfitti e andranno a casa. Le stesse cose che troviamo nel arringhe di Cicerone contro Catilina, ancora una volta oligarchi contro popolari. Cambiano i mezzi, ma voglio dire, questa accusa è coesiste da che esiste la democrazia. 1, 2. Se andiamo a vedere, è su Twitter che si forma l'opinione. I giornalisti credono molto di sì, però non è vero, non è su Twitter che gli italiani decideranno come votare al referendum, ma lo dicono i sondaggi, Amadori, o lo dico io? Perfettamente ragione, la sua analisi è correttissima in un duplice senso, cioè da un lato la tendenza a distorcere l'informazione e a selezionare solo l'informazione che è coerente con le nostre aspettative, questa tendenza che è stata benissimo illustrata nell'intervento precedente è una tendenza propria della mente umana, è il cervello umano che è fatto così, sono categorie kantiane. Dio o il caso ci hanno costruito con questo tipo di architettura mentale, quindi la distorsione c'è da sempre e questa è la prima delle verità che lei ha enunciato. La seconda è appunto che ancora oggi la gran parte del consenso collettivo non si forma sui new media, in particolare Twitter è assolutamente marginale dal punto di vista del grande pubblico, assolutamente marginale. Twitter è il mezzo di riferimento per l'elite che governa la comunicazione, è il mezzo dei comunicatori, i quali sviluppano una sorta di group thinking, di pensiero di gruppo, altro fenomeno studiatissimo in scienze cognitive, che poi viene scambiato per la realtà. Quindi lei ha perfettamente ragione, non è da oggi che succede questo, continuerà a succedere per sempre e i media, diciamo di tipo social, hanno sì un ruolo, ma proporzionale al peso limitato che tuttora hanno nella formazione del consenso collettivo. Anche perché sono pochissime le persone percentualmente che sono sui social attive. È incredibile pensare che ci siano persone che pensano di influenzare o portare voti da ormai leggiamo sui giornali tutti i giorni. E però invece evidentemente una qualche percentuale non quantificabile, anche di un 1%, di uno 0,5%, non lo so, evidentemente è influenzabile anche attraverso questi mezzi. Dobbiamo però fermarci un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, ma rimanete con noi, Amadori e Quattro Ciocchi, perché ripartiamo. Chiamateci anche 800 24 00 24, cari ascoltatori. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, ci stiamo un po' interrogando sul fatto se un certo fighettume da Twitter, twittarolo, ci siamo anche noi, non nel fighettume, ma su Twitter. A me piace, per esempio, Twitter. Sì, come social, ma anche Facebook. Io lo uso, è bello, però è bello per interagire. Non credo affatto che questo sia il canale attraverso il quale gli italiani decidono per il referendum. No, gli italiani no. Una parte, magari piccola, degli italiani, la parte forse prioritaria, sì. Quando dico decidono, intendo quello. Ma sai che i voti poi si contano ognuno. Vanno certo. Chiediamola a Quattro Ciocchi per capire, perché Quattro Ciocchi, voi da scienziati controllate come si sviluppa quello che possiamo dire, anche come si diffondono le bufale, quanto la gente ci crede, quanto viene influenzata, ecco, ma quanto percentualmente questo possa andare a incidere, ci può dire? No, questo rientra allora, in ambito. Guarda, forse faccio un esempio che spiega bene sì. La faccenda. Siamo tutti soggetti a confirmation bias, no? In qualche modo ci associamo ad una narrazione, quindi ci fa comodo vedere le cose in un determinato modo. Si può dire che internet e i social abbiano un minimo impatto, è una narrazione. Abbiamo 20 milioni di utenti su Facebook, 20 milioni. 20 milioni. Le persone si polarizzano sui social, dire che i social non abbiano effetto nella formazione dell'opinione pubblica è confirmation bias. Quindi in qualche modo siamo tutti soggetti, siamo narrazioni in contrasto e ci identifichiamo per contrasto. Il mio gruppo, non so, il mio gruppo di riferimento, non so, quello degli scienziati o dei nerd, si identifica per contrasto contro quello degli umanisti, così viceversa. E ci ritroviamo quindi per fazioni politiche e Trump, tramite Cernovic, che è stato il genio della comunicazione, ha detto esplicitamente che loro hanno sfruttato pesantemente questo fenomeno, non a caso i sondaggi che ancora vengono presi a riferimento non hanno preso praticamente nulla, pure Nat Silver si è inventato una storia per dire che comunque sia lui era nell'errore. Il problema c'è, il fenomeno c'è, e sui media i giornalisti stanno inseguendo. È crollata la struttura di mediazione dell'elite, perché ognuno produce e consuma i contenuti che più aggradano. Ma non lo so, quattro ciocchi, devo dire la verità, io leggerò con grande attenzione lo studio perché non ne metto in dubbio i fondamenti, però ho l'impressione, anche nell'ascoltarlo, sono sincero, sbaglierò, ammetto il mio limite, ho l'impressione che c'è un eco della cosa che oggi esagerata. Funziona a ripetere, no? Perché lo dico? Credere, arrivo al concreto, credere che i 5 Stelle derivino dal fatto che ci sia una regia internetara e basta. Per me che quattro anni fa sono arrivato al voto dicendo beccano il 25% dei voti girando l'Italia, significa continuare a non capire perché prendono un quarto dei voti. Ed è diventata una teoria anticomplottista, ma più che complottista, perché crede che la cosa dipenda da una catena di troll organizzata da una società, cioè quella Casaleggio. Cose che a me fanno rabbrividire, perché ho un'altra idea di che cos'è la politica, eccetera. Però non è così. I giornalisti amano spacciare da 4 anni intorno, per esempio, alla figura dell'ispiratore della comunicazione, il Presidente del Consiglio, una roba come se fosse il prodotto di una fiction televisiva, per chi ha avuto a che fare con Sensi, quando lavorava, prima di tutto questo di diventare intoccabile tranne che per gli amici degli amici, perché non si può parlare se non sei nell'inner circle, sa che non è così, cioè che è una persona molto intelligente e nato nel trattare, nel evolvere comunicazione politica vecchio stile, non so se è chiaro. Allora io dico semplicemente, non faccio altro che abbeverarmi di tutti questi studi, ma ho qualche remora a credere davvero che l'importanza attribuita alle tribù organizzate sui nuovi media sia così fondamentale rispetto al mainstream dell'opinione pubblica. Vedremo qualche anno. Adesso ad Alessandra Amadori, non ancora. Alessandra Amadori, c'è la grande comunità dei sondaggisti internazionali, appunto, che dopo Donald Trump si chiede, ma questa post-verità, cioè la gente non crede più ai fatti, ma appunto si abbevera di quelle che sono le narrazioni. E quindi i sondaggisti sono molto spiazzati. Si giustifica anche così il fatto che anche Donald Trump non sia stato beccato nella vittoria da nessuno? Allora, io, appunto, essendo a mia volta un ricercatore empirico, non umanista né un idealista, ho sviluppato dopo l'elezione americana un'analisi, diciamo, di desk di tutti i sondaggi, ripeto, tutti i sondaggi fatti, non il singolo sondaggio del singolo istituto che ha il singolo rapporto col singolo grande mezzo di comunicazione, di tutti i sondaggi fatti nel periodo precedente il voto da parte di tutti gli istituti americani. Facendo questa analisi, che viene dalla medicina e si chiama meta-analisi, è una post-analisi dei dati di desk, si vede con una certa chiarezza che in realtà il trend intercettato dai sondaggi era esattamente nella direzione in cui sarebbe poi andato il voto. Quindi c'era già evidenza, a voler considerare tutta l'informazione disponibile, di un forte riallineamento tra Trump e Clinton. Tra l'altro è giusto parlare di riallineamento perché nel voto popolare espresso, come sapete, comunque Clinton ha preso un milione di voti in più di Trump. Quindi il sondaggio rileva il voto espresso, non può tenere perfettamente conto del meccanismo dei grandi elettori. Quindi, in sintesi, qui si torna utile il discorso che veniva fatto prima, cioè si era creata una narrazione di questo tipo perché alcuni media hanno valorizzato alcuni singoli sondaggi. Il singolo sondaggio può essere distorto, come succede in medicina, anche in medicina c'è lo stesso problema. Quindi, in realtà, questo dell'erroneità dei sondaggi è stato forse un falso problema, cioè è stato frutto di quel processo di narrazione, di selezione dell'informazione che ci interessa, che veniva descritto molto bene prima. Va bene, sentiamo qualche ascoltatore. Massimo ci chiama da Trieste, buongiorno. Buongiorno, io devo dire che ho condiviso parecchio di quello che avete detto in questo momento, sia con Giannino che dell'Amadori. Io penso che nella formazione della opinione pubblica conti ancora molto l'esperienza individuale. Oggi l'esperienza individuale, che quando è condivisa da più gruppi, crea anche uno status generale che smuove l'opinione di molte persone. Uno degli elementi fondamentali oggi è l'immigrazione, la paura dell'immigrazione. Questo tende l'opinione pubblica a spostare verso, colpevolizzare chi in quel momento è al governo sul fatto di non saper gestire. Quindi minimizza probabilmente l'importanza che hanno sicuramente i media, eccetera. Sul discorso di Amadori, del fatto di affrontare il problema come da un punto di vista scientifico medico, sono perfettamente d'accordo, però certamente quando tu fai un trial multicentrico dove hai un progetto per dimostrare qualche cosa, ci sono comunque molti bias. Uno dei bias fondamentali è proprio quello che l'esperienza diretta alla fine ha comunque un peso fondamentale. Ecco, nel bias, parliamo in modo che capiscano anche le casalinghe di Voghera, lo dico Massimo a Trieste, lo dico a tutti, in modo che ci ascoltano tutti, grazie. Un vizio, un difetto. Daniele da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi, mi sentite? Sì, benissimo. Buona giornata intanto, grazie. Io volevo mettere sul piatto due cose. La prima è che credo che chi fa i sondaggi abbia anche un interesse economico, perché di quel lavoro ci vive, e di tenere, diciamo, sulla corda le due parti ne abbia anche un vantaggio economico. Metto un po' in buona ma dai, adesso però non è così, Daniele, perché la credibilità di un istituto, cioè il numero di clienti nel tempo, e quanto più si risulta affidabile, come chi vende un'automobile. Se uno lo fa per vendere un'enciclopedia, dopo alla terza sondaggio che non imbroca, dicono vabbè, grazie. Ma questo non perché io e Alessandro siamo pagati l'associazione dei sondaggisti, ma perché facendo questo mestiere abbiamo a che fare con loro da decenni. Però Daniele, ci dica. Scusate, la seconda cosa era che secondo me comunque i sondaggi in periodi elettorali di qualsiasi tipo dovrebbero essere proibiti. Perché se io ho quattro... oggi è l'ultimo giorno, da oggi in poi infatti sono proibiti, è proibito divulgarne i risultati. Sì, ma per le elezioni americane per esempio non è stato così. No. Quattro giocatori, e io penso che... A me per esempio piaceva Giannino una volta, non voglio toccare una ferita. No, non è una ferita, è una giusta malattia che è stata curata con un'amputazione, è giusto. Ecco, e penso di votare per lui, no? E quindi mi avvicino alla data delle elezioni e scopro che questo, dando il mio voto, do un voto a un 2% degli elettori. Penso che butto via il voto. A quel punto penso di votare per il meno peggio, per far vincere quello che c'è vicino. Per questo motivo lei dice i sondaggi andrebbero aboliti. Per me proprio per questo tipo di cose vanno proprio aboliti. Però vede c'è chi le potrebbe rispondere. Io che sono sempre stato da una cultura minoritaria, in teoria dovrei pensarla come lei, perché il suo ragionamento rende più possibile, meno condizionata una scelta anche per l'offerta politica nuova, cioè piccola. Però dall'altra parte c'è chi potrebbe rispondergli, scienziati della politica, non giornalisti. E no, perché una delle funzioni fondamentali è consentire un voto ben informato per decisioni su chi davvero poi governa, un voto efficace, non solo rappresentativo. E quindi, per esempio, le informazioni sui sondaggi e sulle tendenze consentono agli italiani di capire meglio, agli elettori di qualunque paese, di capire meglio quanto sia più o meno efficace l'idea che avevano in precedenza. Quindi sa, questo è un dibattito aperto, e questo spiega perché in alcuni paesi i sondaggi si possono fare fino a un mese prima, fino a due mesi prima, oppure fino al giorno prima. Oggi per esempio, scusami, tre giornali, facciamo che oggi è l'ultimo giorno, c'è un quotidiano, un grande quotidiano nazionale, che dice che il sì è in vantaggio di 8 punti, un altro dice che è in vantaggio di 7 punti, c'è Italia Oggi, Italia Oggi che dice sì e no sono alla pari. Come si vede, sondaggi. Tre testate che la pensano diversamente. Sondaggi. Vorrei capire a Quattro Ciocchi una cosa in conclusione. Lei, Quattro Ciocchi, ha detto che quando uno si forma un'opinione sui social, soprattutto, non accetta molto il contraddittorio. Questo è interessante, nel senso, uno può credere che non siamo andati sulla Luna, e se ci crede, o le scie chimiche, non c'è nulla che potrà convincerlo del contrario? Esattamente, perché proprio il confirmation bias è caratterizzante dei nostri processi di formazione dell'opinione. Ma in generale, qualunque informazione viene presa, il sondaggista incrocia tutti i dati per far tornare una narrazione che in qualche modo i sondaggi ancora colgono l'andamento. Chi dice che sui social non ci si informa, il Pew Research Center dice che il 67% delle persone accede alle testate giornalistiche attraverso i social. Quindi in qualche modo anche la ricostruzione del fact-checking è completamente inutile. Cerchiamo tutti quanti la conferma del nostro ruolo sociale stesso. Cioè, non è che uno cerca il fact checking, cioè il controllo dei fatti, ma cerca quello a cui pensa già a cui pensa già prima di cercarlo, e ne cerca la conferma. Comunque vedo che tra i nostri ascoltatori, per esempio Giovanni ci scrive: Oscar non ha capito che ha detto quattro ciocchi. No, ma non è questo. Io semplicemente dico che credere che sia così fondamentale sul totale delle scelte dell'opinione pubblica è fare ancora un salto in avanti, lo sta diventando, ma non è ancora quello. Se poi vogliamo ignorarla questa cosa perché pensate che altrimenti non sia alla page, è un altro paio di maniche. Per me, per esempio, vecchio stile, contano alcune cose fondamentali. Vi faccio un esempio e lo faccio a voi, cari colleghi del Sole 24 Ore: se c'è la conclusione di un'indagine che dura 3 anni per uno dei banchieri che contano di più in Italia e contano di più da 40 anni, cioè Bazzoli, capite? E ci sono la conclusione di un'indagine che dice che Bazzoli è uno dei registi della collusione nelle nomine di UbiBanca, che si deve prendere tra poco le 4 good bank delle banche risolte. Questa è una notizia da prima pagina e bisogna mettere la foto di Bazzoli in prima pagina. Ora, in prima pagina non lo mette nessuno in Italia, nelle pagine economiche molti giornali. Il Sole non lo mette né in prima pagina né nel titolo di Finanza e Mercati, né il nome né la foto. Ragazzi, non si fa così il nostro mestiere. Allora, ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio Peter Bescapè, regia come sempre, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. E che dire, ci troviamo lunedì, caro Oscar, qui per la trasmissione con un risultato. Non sarà quello del referendum, ma per me è più importante. Scherzo, dai! Se no davvero ti dicono che pensi che sia più importante. No, non ti preoccupare. Beh, però... No, vabbè, dai! Ci troviamo lunedì, ciao! Che è l'11 c'è Toro Juve. Ciao, poi. Ciao! Ciao.